Si potrebbe andare in radio a uno zoo criminale e vedere in gabbia quel rachitico di merda e gridare aiuto, aiuto, è scappato leone. Puoi vedere di nascosto l'effetto che fa le Benji Fam. Sai che Alan è l'anagramma di anale, qui lo cerca l'ispettore anale. E Manzone è costretto a scappare dall'Italia perché è un evasore. Libertà di pensiero, opinione, privilegio per poche persone. Dallo stereo parte una canzone. Lo zoo è una religione. Lo zoo è una religione. Lo zoo è una religione. Lo zoo è una religione. Lo zoo è una religione. Non ascolto, non sono, non ascolto la fam. Non sento più reggae, non ho nessun fan. Non ho più la testa per fare qualcosa. Io non riesco a dire più la verità. Non rispondo se chiama la zia. Se vedo un leone io non scappo via. E poi cazzo io non chiedo scusa, coglione, nemmeno se mi chiama il vendicatore. Odio lo zoccole, odio le zoccole, odio anche Anan perché non c'ha zoccole. Odio anche Zun, lo Zar e lo Zen. Odio lo zoo se lo odio anche te. Odio sto jingle perché me l'ha imposto sta merda di macho, manco lo conosco. Mi parli di Poppy, di Pippo e di Spine, ma sai che lo zoo io non lo ascolto mai. Lo zoo.